Basic Italian, 7th edition. Preliminary chapter. A. What is the teacher saying? Listen, then repeat what the teacher is saying. Before proceeding, look at the model in your manual and listen as the speakers do the model for you. L'insegnante dice buongiorno. L'insegnante dice buongiorno. Now it's your turn. After you have given your response, listen for the confirmation of your answer. Use the confirmation to check your pronunciation and intonation, then repeat the confirmation after the speaker. 1. L'insegnante dice, aprite i libri. L'insegnante dice, aprite i libri. 2. L'insegnante dice, leggete le parole. L'insegnante dice, leggete le parole. 3. L'insegnante dice, rispondete in italiano. L'insegnante dice, rispondete in italiano. 4. L'insegnante dice, ascoltate. L'insegnante dice, ascoltate. 5. L'insegnante dice, per favore, risponda in italiano. L'insegnante dice, per favore, risponda in italiano. 6. L'insegnante dice, tutti insieme, per favore. L'insegnante dice, tutti insieme, per favore. 7. L'insegnante dice, vada alla lavagna. L'insegnante dice, vada alla lavagna. 8. L'insegnante dice, per favore, ripeta. L'insegnante dice, per favore, ripeta. 9. L'insegnante dice, ora leggete ad alta voce. L'insegnante dice, ora leggete ad alta voce. 10. L'insegnante dice, chiudete i libri. L'insegnante dice, chiudete i libri. B. Your friend Andrea hasn't studied and needs your help with the vocabulary. Listen as the model in your manual is done for you. Come si dice good morning? Si dice buongiorno. Now it's your turn to answer Andrea's questions. Listen for the confirmation of your response and check your pronunciation and intonation. Then repeat the confirmation after the speaker. 1. Come si dice good evening? Si dice buonasera. 2. Come si dice my name is Andrea? Si dice mi chiamo Andrea. 3. Come si dice please? Si dice per favore. 4. Come si dice please repeat? Si dice ripeta per favore. 5. Come si dice I don't understand? Si dice non capisco. 6. Come si dice What does lavagna mean? Si dice Cosa vuol dire lavagna? 7. Come si dice to read out loud? Si dice leggere ad alta voce. 8. Come si dice today is Monday? Si dice oggi è lunedì. 9. Come si dice good night? Si dice buonanotte. 10. Come si dice good afternoon? Si dice buongiorno o buonasera. Sì. Now let's do some quick multiplication in Italian. Listen as the model in your manual is done for you. 4 per 4? 16. Now it's your turn. After responding, listen for the confirmation and check your answer. Then, repeat the confirmation after the speaker. 1. 3 per 3? 9. 2. 2 per 2? 4. 3. 5 per 5? 25. 4. 6 per 6? 36. 5. 10 per 5? 50. 6. 2 per 4? 8. 7. 3 per 4? 12. 8. 4 per 4? 16. 9. 2 per 5? 10. 10. 2 per 6? 12. D. Now let's finish our practice session with some quick subtraction in Italian. Listen as the model in your manual is done for you. 6 meno 2? 4. Now it's your turn. Remember to listen for the confirmation and to repeat the confirmation after the speaker. 1. 6 meno 3? 3. 2. 10 meno 5? 5. 3. 9 meno 3? 6. 4. 15 meno 4? 11. 5. 7 meno 2? 5. 6. 20 meno 10? 10. 7. 19 meno 5? 14. 8. 12 meno 6? 6. 9. 25 meno 10? 15. 10. 20 meno 15? 5. Basic Italian 7th edition. Chapter 1. A. Let's start out by doing some dictation to see how well you can associate what you hear with the written word. 10 words will be given. Each word will be repeated. After the repetition, write the word down in your manual. Let's start. 1. Seno. Seno. 2. Cena. Cena. 3. Scena. Scena. 4. Casco. Casco. 5. Corto. Corto. 6. Cencio. Cencio. 7. Scelta. Scelta. 8. Chiodo. Chiodo. 9. Scusa. Scusa. 10. Sciabola. Sciabola. 10. Now, the entire list will be read through once. As you check your work, repeat each word after the speaker. 1. Seno. 2. Cena. 3. Scena. 4. Casco. 5. Corto. 6. Cencio. 7. Scelta. 8. Chiodo. 9. Scusa. 10. Sciabola. B. You will hear a word. Repeat the word and at the same time provide the appropriate article. Before proceeding, look at the model in your manual and listen as the speakers do the model for you. Nazione. La nazione. Now it's your turn. After you have given your response, listen for the confirmation and check your answer and pronunciation. Let's start. 1. Esame. L'esame. 2. Autore. L'autore. 3. Signora. La signora. 4. Nome. Il nome. 5. Lettura. La lettura. 6. Corso. Il corso. 7. Studente. Lo studente. 8. Giacca. La giacca. 9. Cravatta. La cravatta. 10. Camicia. La camicia. 11. Stato. Lo stato. 12. Gonna. La gonna. 13. Canottiera. La canottiera. 14. Zio. Lo zio. 15. Zia. La zia. C. Now, give the plural of each noun you hear. First, listen as the model in your manual is done for you. Il gettone. I gettoni. Now it's your turn. After giving your response, listen for the confirmation and repeat the answer after the speaker. 1. L'opinione. Le opinioni. 2. La televisione. Le televisioni. 3. L'attore. Gli attori. 4. L'esame. Gli esami. 5. Il nome. I nomi. 6. Lo zero. Gli zeri. 7. La zia. Le zie. 8. Il libro. I libri. 9. Il saluto. I saluti. 10. L'autore. Gli autori. 11. Il maglione. I maglioni. 12. Lo zio. Gli zii. 13. L'americano. Gli americani. 14. L'italiana. Le italiane. 15. Lo Stato. Gli Stati. D. Now, in the same manner, give the singular of each noun you hear. Check your response against the confirmation. 1. Le penne. La penna. 2. Le frasi. La frase. 3. Le ore. L'ora. 4. I compiti. Il compito. 5. Gli studenti. Lo studente. 6. Gli errori. L'errore. 7. I signori. Il signore. 8. Le pizze. La pizza. 9. Gli anni. L'anno. 10. I giorni. Il giorno. 11. I telefoni. Il telefono. 12. I corsi. Il corso. 13. I numeri. Il numero. 14. Le ragazze. La ragazza. 15. Le madri. La madre. E. Your friend Andrea partied till late last night and is in a state of total disarray today. Try to help him out by offering him the use of your things. Listen first to the model. Non trovo gli appunti. Vuoi gli appunti che ho io? Now it's your turn. After responding, listen for the confirmation. 1. Non trovo il quaderno. 2. Vuoi il quaderno che ho io? 2. Non trovo la penna. 3. Vuoi la penna che ho io? 3. Non trovo le copie. Vuoi le copie che ho io? 4. Non trovo il numero di telefono. Vuoi il numero di telefono che ho io? 5. Non trovo i gettoni. Vuoi i gettoni che ho io? 6. Non trovo il libro. Vuoi il libro che ho io? 7. Non trovo l'esempio. Vuoi l'esempio che ho io? 8. Non trovo il maglione. Vuoi il maglione che ho io? F. Andrea is still fussing, but this time you help him by finding his things or the people he's looking for. Listen first to the model. Non trovo gli appunti. Ecco gli appunti. Now it's your turn. Check your response against the confirmation. 1. Non trovo il professore. Ecco il professore. 2. Non trovo le copie. Ecco le copie. 3. Non trovo il telefono. Ecco il telefono. 4. Non trovo il gettone. Ecco il gettone. 5. Non trovo il numero. Ecco il numero. 6. Non trovo il quaderno. Ecco il quaderno. 7. Non trovo il libro. Ecco il libro. 8. Non trovo gli ultimi appunti. Ecco gli ultimi appunti. G. You will now hear a sequence of sentences. Change each sentence you hear to the plural. First, listen to the model. C'è il telefono. Ci sono i telefoni. Now it's your turn. After giving your response, listen for the confirmation. 1. C'è il corso. Ci sono i corsi. 2. C'è l'esame. Ci sono gli esami. 3. C'è la lezione. Ci sono le lezioni. 4. C'è la pizza. Ci sono le pizze. 5. C'è la professoressa. Ci sono le professoresse. 6. C'è il libro. Ci sono i libri. 7. C'è la scuola. Ci sono le scuole. 8. C'è la biblioteca. Ci sono le biblioteche. 9. C'è il ragazzo. Ci sono i ragazzi. 10. C'è la studentessa. Ci sono le studentesse. H. You will now hear a sequence of statements. Using the question word key, ask the question that would have elicited each one of these statements. Listen first to the model. Luciana alza il ricevitore. Chi alza il ricevitore? Now, let's start. 1. Gianni non trova gli appunti. 2. La signora Bertolini risponde. Chi risponde? 3. Federica è a casa. Chi è a casa? 4. Federica non guarda la televisione. Chi non guarda la televisione? 5. Gianni ha il libro. Chi ha il libro? I. Now do the same thing, but this time use the question words che cosa and ask the question that would have elicited the response you hear. Listen first to the model. Gianni non trova gli appunti. Che cosa non trova Gianni? Now, let's start. 1. Squilla il telefono. Che cosa squilla? 2. Luciana alza il ricevitore. Che cosa alza Luciana? 3. Federica non guarda la televisione. Che cosa non guarda Federica? 4. Gianni ha il libro. Che cosa ha Gianni? 5. Gianni vuole gli appunti di Federica. Che cosa vuole Gianni? J. To close our practice session, let's take inventory. You will hear an item. Look in your record, that is to say your manual, find the number, and state how many of that item are available. First, listen to the model. Quaderni. 36 quaderni. 1. Manuali. 40 manuali. 2. Libri d'italiano. 22 libri d'italiano. 3. Telefoni. 3 telefoni. 4. Quaderni. 30 quaderni. 5. Gettoni. 9 gettoni. 6. Lavagna. 2 lavagne. 7. Penne. 5 penne.